mia, per ogni umana sorte, ecco già mia vicina all'ora della morte. E forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, ma non c'era il gar